L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e buon anno a tutti voi ascoltatori di Radio 24 e in particolare dell'altro pianeta. In questa prima puntata dell'anno tiriamo un po' il fiato dagli argomenti, diciamo, più pesanti e andiamo nelle Langhe, che ci fa bene, tra l'altro, visto lo smog nelle nostre città. Andiamo in Piemonte per seguire lo sviluppo di un progetto di cui parlammo quasi esattamente un anno fa e che prosegue fortunatamente con successo. Il progetto si chiama Terre Originali, nacque per individuare aspiranti imprenditori agricoli che si stabilissero in Piemonte, usufruendo, diciamo, di terreni ed expertise messi a disposizione dalle comunità locali, che hanno tutto l'interesse che il territorio non venga abbandonato e non si spopoli, perché è chiaro che a meno persone corrispondono meno servizi e di conseguenza ancora più abbandono, e così via in una spirale negativa da fermare nelle Langhe, come ovviamente in qualunque altra parte del mondo. Ma questo è un esperimento interessante che sta andando avanti bene, quindi magari può essere d'esempio per altri luoghi d'Italia. Questo progetto è nato nel 2012, ha visto la pubblicazione di un bando per gli interessati nel 2014, poi c'è stata la selezione dei progetti più adatti allo sviluppo nelle Langhe. Alcuni di questi, come sentiremo, sono già partiti, ma il lavoro prosegue. E il lavoro chi lo fa? I contadini delle Langhe, che è un'associazione di microproduttori agricoli nata nel 2009, Clavesana, che è una cantina, la più grande delle Langhe monregalesi, che oggi raccoglie oltre 350 conferitori del territorio, l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, fondata e ispirata, come ben si sa, dai valori di Slow Food, il Comitato Agrario di Mondovì e un incubatore di start-up milanese, quindi l'unico che esce dal territorio piemontese. Si chiama Make a Cube e fornisce affiancamento imprenditoriale a chi ne ha bisogno. Si è fatto il punto della situazione nell'incontro di dicembre, come dicevamo, a Madonna delle Surie, che è una frazione del comune di Clavesana, in provincia di Cuneo. Fabio Palladino è il portavoce dell'Associazione dei Contadini delle Langhe. Com'è andata questa giornata? Quarto appuntamento, quindi... Rispetto al passato la gente è un pelo di meno, ma io, quelli che stanno tornando, c'era la rete, perché molte delle persone sono quelle che ci danno una mano proprio settimanalmente, segnalando i terreni, che hanno delle competenze, e quindi secondo me è andata molto bene. Cioè, da questo punto di vista non abbiamo neanche più fatto grandi la parte. Terreni, cosa vuol dire? Cioè, sanno di terreni, diciamo, incolti, e quindi segnalano, e quindi voi cercate chi è il proprietario, magari? Conoscono, ti introducono. Oggi c'era un imprenditore che io non potevo citare perché lui comunque non vuole in questa fase, però si è fatto avanti, lui ha delle idee e gli mancano, diciamo, dei giovani, per esempio, e quindi era molto curioso di capire questi giovani se sarebbero disponibili a coprogettare con lui, per esempio. Però quello che sta succedendo è che questa rete fiduciaria, cioè, ci stiamo, come dire, autoaccreditando su tutti gli aspetti, per cui quando, ad esempio, la domanda sulle banche, che l'ha fatta un ex amministratore locale, imprenditore, è perché noi abbiamo avuto un rifiuto di una banca locale che, rispetto a questo progetto, 3 anni fa ci ha detto: no, ma l'agricoltura non conta poi così tanto. Per cui c'è ancora molto da fare, ma anche lì sono convinto che, grazie alla credibilità del progetto, riusciremo a superare anche queste resistenze. Dunque, i giovani interessati, allora, hanno fatto una scrematura, è già stata fatta? Sì. E adesso quanti ne avete in pista? Adesso concretamente stiamo lavorando su 4. Uno ha avuto una defezione, per dirti, proprio ieri, perché comunque, diciamo, si è classificato molto in alto dal punto di vista dei passaggi, però gli abbiamo detto che dal punto di vista commerciale non aveva affrontato il problema, e quindi si sono ritirati, perché noi qua non vogliamo favorire lo sviluppo, diciamo, la tutela ambientale, lo sviluppo sociale, ma con delle aziende agricole. Quindi prima di tutto deve essere un'azienda, quindi una realtà che poi sa stare sul mercato. Sono 4 queste realtà, abbiamo già iniziato a lavorarci, in realtà, al di là di oggi, e da gennaio entriamo nel vivo. Contiamo con la primavera, se sono innestabili, di cominciare a creare i primi contatti con le terre. I proprietari terrieri è un tema molto delicato, perché i proprietari terrieri non vogliono esporsi. Non stiamo parlando di grandi proprietà, il problema non è magari anche la speculazione commerciale, però come ho detto, anche solo perché non vogliono disfarsene dal punto di vista affettivo, loro non vogliono vendere, però se c'è una rete fiduciaria dico io lo metto a disposizione, voi garantite che quel giovane è una persona seria, facciamo un contratto di affitto magari di 20 anni, quindi da mediatore, facilitatore e anche elemento di fiducia, insomma. E questa modalità dell'intervista presentata oggi è fondamentale, perché quelle persone, adesso oggi non i pezzi non sono stati messi, ma al fondo dell'intervista gli chiediamo: saresti disponibile ad aiutare un giovane a mettere la terra a disposizione? Sì, la risposta è, hanno fatto 18 interviste, per la metà dicono sì. Però quei terreni, se non andavi a intervistare non lo sapevi che c'erano, non sono sul mercato per esempio. Andranno mai quelle persone? Vanno, oppure ci vanno tra 5 anni, quando abbandonano definitivamente, ci vanno anche in malo modo, no? Perché a quel punto magari subentra un figlio disinteressato che seppur di smembra l'azienda, per esempio. Allora, l'ultima cosa è le prossime tappe, ne avete di punti, appuntamenti nell'anno, nel mese, oppure ci ritroviamo l'anno prossimo? No, la prossima tappa è che a gennaio partiamo al comizio agrario con questo sportello, che in realtà è una scusa nostra per dare una cadenza anche più interessante, anche per i lavori ci sono, ormai i giovani e le terre da far incontrare li abbiamo, quindi gennaio, febbraio e marzo lavoreremo a far fare questi incontri, poi ci riaggiorniamo, speriamo in primavera. Con altre terre cerchiamo altri giovani. Nel frattempo cosa sta succedendo? Che altre terre arrivano? Che altri giovani arrivano? La ragazza argentina io l'ho saputo ieri sera, ma perché? Perché anche l'importanza della comunicazione, perché si sta spargendo un po' la voce e quindi ci stanno contattando, quindi anche questa fase al di là del bando o della mappatura che sta facendo Scienze Gastronomiche, noi lavoriamo lo stesso su qualunque segnalazione, l'andiamo a valutare e la nostra forza è perché adesso siamo tanti, siamo almeno 20-25 persone che oggi erano tutte qua, che non hanno magari il palcoscenico, però ci sono ed è importantissimo. Maurizio Samori è un giovane aspirante imprenditore agricolo che fa anche parte del gruppo selezionatore dei progetti presentati per Terre Originali. Mi posso definire oggi come oggi un giovane agricoltore che ha inseguito la sua passione fin da quando ero piccolo, anche se i miei genitori non svolgevano questo come primaria attività, cioè non facevano i contadini. Ho sempre avuto questa passione condivisa con mio fratello e per 5-6 anni, finita la scuola enologica, ho diciamo tenuto il piede in due scarpe, nel senso che svolgevo il lavoro da dipendente in un'azienda e reinvestivo. Scusa, che tipo di lavoro? Era un'azienda dove si lavoravano nocciole, quindi nel settore agroalimentare, che comunque non era inerente a quello che avrei sempre voluto fare. E quindi per questi 5-6 anni ho utilizzato lo stipendio che guadagnavo per investirlo nella mia piccola azienda, perché diciamo che il problema maggiore che ho dovuto affrontare è quello che in un'azienda, nonostante il fatto sia piccola come la mia, inizialmente ci sono molte spese e c'è molto lavoro che però non è proporzionato al guadagno che si può avere, e quindi guadagnando uno stipendio potevo reinvestirlo diciamo nell'azienda. E oggi come oggi sono fiero e orgoglioso della scelta che ho fatto, anche se logicamente è una scelta difficile, faticosa, perché comunque non si ha più un orario, mentre prima iniziavo magari al mattino alle 8, alle 5 finivo e al sabato e la domenica ero a casa, adesso gli impegni ci sono tutti i giorni e non si ha un orario e diciamo che le problematiche concrete ci sono. Perché il tuo rapporto con Terre Originali? Io sono insieme a Fabio Paladino, ad Anna e altre persone, abbiamo diciamo valutato i vari progetti, io essendo comunque proprio con le mani in pasta tra virgolette ho potuto dare il mio parere, esprimere nel mio piccolo la mia impressione dei progetti, perché logicamente c'erano progetti che erano un po' buttati in aria, altri che erano più fattibili e concretizzabili, anche perché è giusto che uno affronti la realtà, perché non è poi semplice realizzare il tutto. Avete detto a quelli che avevano presentato dei progetti così troppo sognatori, che erano troppo sognatori, perché poi è anche brutto deludere, no, le aspettative. Sicuramente è brutto deludere, però è meglio deludere in partenza che poi dopo, io la penso così, perché prendersi una delusione poi in corso d'opera secondo me è peggio, è giusto vedere la realtà dei fatti com'è realmente. E diciamo che questa opportunità di Terre Originali è una grande opportunità per i giovani secondo me, perché un'altra grande difficoltà è quella di poter trovare dei terreni, perché oggi come oggi magari le certe persone non possono coltivarli o utilizzarli per diverse problematiche, e li hanno lì che sono incoltivati, quindi possono anche comunque perdere la loro fertilità e il loro utilizzo. E grazie a questo progetto c'è la possibilità di mettere in contatto i giovani che hanno l'intenzione di coltivare veramente il terreno con i proprietari dei terreni, e anche l'opportunità di sostenerli, diciamo, dal punto di vista agronomico, con magari persone che le possono consigliare o metterli in contatto con persone che hanno svolto per tanti anni questa attività. Se Maurizio Samorì sta un po' a metà tra il ruolo di imprenditore agricolo e quello di selezionatore, Luca Leggero è invece completamente dalla parte dell'imprenditore. Ma il suo è un progetto molto particolare e non esclusivamente agricolo. È partito 3 anni fa e con terre originali ha trovato ulteriori possibilità di sviluppo. Parliamo del progetto a questo punto. Del progetto. Il progetto si chiama Welcoming Farming. L'idea di fondo è quella di creare un contesto rurale sostenibile e concreto in cui riabilitare completamente e quindi anche socialmente dei pazienti psichiatrici malati gravi della comunità qua vicino di Farigliano, che da 3 anni a questa parte collaborano con noi per la coltivazione di queste terre. I nostri prodotti sono quelli tradizionali dell'Alta Langa, quindi il vino e la nocciola. Adesso da poco stiamo cercando di implementare una coltivazione innovativa, che è quella del Lycium Barbarum, detto comunemente goji, che sta andando, e noi puntiamo su questa innovazione anche perché abbiamo valutato questi effetti benefici di questa bacca, e ecco, l'idea è quella di creare anche un contesto non solo tradizionale ma anche innovativo. Questo era il progetto, e c'era la necessità di individuare anche dei terreni su cui svilupparlo, ed è lì che siete entrati in contatto con terre originali. Adesso. Sì, esattamente, proprio perché per creare un contesto sostenibile e concreto bisogna aumentare anche i volumi, perché soltanto con una produzione di un certo volume è possibile sostenere i costi e anche quindi questi progetti di inserimento sociale e lavorativo di queste persone disagiate. Come sta andando? Cioè, a che punto siete adesso di questo percorso? Siamo partiti, abbiamo già aumentato il quantitativo di vigneto, la superficie vitata della nostra azienda di Murazzano. Abbiamo da poco creato un appezzamento di Lycium Barbarum di circa 2 ettari. Abbiamo piantato da qualche anno, ma per le tempistiche agricole della nocciola è necessario aspettare ancora, circa 2000 piante per un totale di 2 ettari di nocciola, e logicamente cerchiamo sempre di più, poco per volta ogni anno, di aumentare la nostra superficie per creare un punto, una sostenibilità. È un reddito, chiaramente, per noi ma anche per queste persone disagiate che ci lavorano, perché ci tengo a precisare che questi ragazzi sono comunque stipendiati e sono i nostri soci della cooperativa sociale, che si chiama Naturalmente, e lavorano con noi, a stretto contatto con noi ogni giorno. Facciamo una piccola pausa, torniamo tra poco con altre interviste ai protagonisti e agli ospiti del 4º incontro dei promotori e sostenitori di Terre Originali. Radio24.it è sempre con te, anche in viaggio. Consulta la mappa del traffico aggiornata in tempo reale. Potrai conoscere la viabilità del luogo in cui ti trovi e avere tutte le info su code, cantieri e altre criticità. Clicca su Mappa e scopri il nuovo servizio su radio24.it. Radio 24, la passione si sente anche in viaggio. Ancora ben ritrovati da Laura Bettini per questa prima puntata del 2016. Stiamo parlando di un progetto che presentammo all'Altro Pianeta quasi un anno fa e che fortunatamente prosegue. Si chiama Terre Originali ed è ambientato, per così dire, nelle Langhe. Nasce per attrarre in quelle terre bellissime, notissime, ma non più popolate e lavorate come un tempo, aspiranti imprenditori agricoli. La formula di terre originali prevede una sorta di scambio. L'associazione individua i terreni incolti, seleziona i progetti degli aspiranti agricoltori, cerca di abbinare i progetti che hanno più chance di riuscita ai terreni adatti, aiuta anche nell'avvio dell'attività e nell'inserimento sociale, ma in cambio, diciamo così, chiede una permanenza stabile sul territorio. Quindi sono esclusi a priori imprenditori che non intendano trasferirsi in loco. Ci sono già alcuni progetti in pista, tra cui quello di cui abbiamo parlato prima per la riabilitazione di pazienti psichiatrici, che è molto interessante, ma ci sono ancora molte altre terre per le quali si cercano progetti e imprenditori. E farebbe molto piacere ricevere qualche aspirante imprenditore a Roberta Ferraris. Sentiamo. Lei ha un'azienda agricola che non, però non cura perché fa un altro lavoro, giusto? Quindi qual è la proposta, diciamo, che ha fatto a Terre Originali? La proposta è quella di mettere a disposizione queste terre però per una collaborazione a un progetto, perché anch'io voglio essere coinvolta in un progetto agricolo. In particolare queste due cascine che ho sono, diciamo, ci sono dei progetti già da tempo per la realizzazione anche di ricettività. Però se io accompagno in giro per l'Italia, se sono in giro per l'Italia per fare sopralluoghi, per scrivere dei testi, dei libri, poi alla fine non è che posso fare tutto. Il progetto è, diciamo, ambizioso, però richiede che ci siano degli altri partner. Quindi io in pratica cercherei sia dei partner lavoratori, quindi disponibili a impegnarsi in un'attività agricola, sia anche eventualmente dei partner investitori che possano credere in un progetto che c'è, insomma, che sta nascendo. Quindi, insomma, lei cerca una mediazione attraverso Terre Originali. Sì, che quindi ecco, io a Terre Originali ho chiesto, visto che io non sono in grado di gestire una cosa di questo tipo, è molto complessa dal punto di vista, diciamo, giuridico, fiscale, anche tecnico, quindi loro hanno la competenza per fare questo, quindi l'accompagnamento sarebbe ideale proprio in questi aspetti, cioè negli aspetti giuridici. Se io mi associo con qualcuno, in che termini lo faccio? In che termini lo faccio? Come garantisco me stessa e le altre persone? Come retribuisco gli eventuali utili? L'assistenza tecnica, cioè io non vengo dal mondo dell'agricoltura, ci sono arrivata già da molti anni, ma mi rendo conto, pur avendo fatto corsi di formazione attraverso Coldiretti, che comunque, cioè, è un mestiere molto complesso, quindi l'assistenza tecnica è fondamentale su come impostare le cose. E tutte cose che io da sola non posso fare, cioè io posso scegliere due cose: decido di andarmene, quindi vendere tutto a un tedesco, a uno svizzero, a uno che si fa la seconda casa, o cercare invece di con altre persone di portare avanti un progetto che mantenga questa terra, diciamo, vitale. E io credo più nella seconda, però mi rendo conto che è una via complicatissima. L'incontro di Madonna delle Surie è stata l'occasione anche per due presentazioni interessanti. Una direttamente legata al progetto Terre Originali, con il video di interviste agli anziani agricoltori e allevatori della zona, realizzato dall'Università di Pollenzo, di cui parliamo tra poco. E l'altra presentazione invece è stata quella del volume A come agricoltura, dal Paleolitico ad Expo 2015, dei giornalisti Matteo Bernardelli e Giulia Bartalozzi, che tra l'altro si occupa di comunicazione all'Accademia dei Georgofili di Firenze, che è la più antica istituzione al mondo dedicata all'agricoltura e all'alimentazione. Con lei abbiamo parlato di agricoltura e paesaggio, perché il paesaggio, che ci è tanto caro, soprattutto a noi italiani, è il prodotto di secoli di agricoltura, non è naturale e non dobbiamo confonderci. Sì, questa confusione viene fatta spesso, e quel che è peggio è che viene fatta anche dalle amministrazioni locali, perché capita molto spesso che i vincoli agli agricoltori siano posti dalle amministrazioni, dalla legislazione. Invece ci dobbiamo sempre ricordare che gli agricoltori sono innanzitutto imprenditori e quindi hanno il libero arbitrio di fare le proprie scelte imprenditoriali e quindi di coltivare una cosa piuttosto che un'altra. Il paesaggio agricolo è sempre stato bellissimo ed è sempre stato cangiante, ovvero si è sempre adattato all'evoluzione dell'agricoltura e dell'uomo. E poi il ruolo degli agricoltori è fondamentale per la tutela anche del territorio, laddove gli agricoltori poi non hanno reddito perché magari sono costretti a non coltivare pur di conservare quel paesaggio, il terreno abbandonato quando ci sono gli eventi purtroppo sente più, sempre più frequenti ormai oggi in Italia, si verificano alluvioni, disastri idrogeologici perché manca poi l'agricoltura, quindi ben vengano gli agricoltori che coltivano, che cambiano il paesaggio e che presidiano la salute del territorio italiano. E arriviamo a questo punto al video molto suggestivo, molto bello dei ricercatori dell'Università di Pollenzo, con il coordinamento del professor Paolo Corvo, che è il direttore del laboratorio di sociologia. Un video che ha raccolto le testimonianze di diversi anziani della zona. Da queste interviste traspariva però non solo una comprensibile nostalgia del passato, ma anche una certa non vergogna, ma nemmeno orgoglio del lavoro fatto. Del resto hanno vissuto questi anziani negli anni in cui l'agricoltura era considerata marginale, anni in cui molti hanno preferito le fabbriche, specialmente quelle di Torino, alle campagne. Ed è questa la riflessione che abbiamo proposto al professor Corvo. È vero, diciamo che questo è interessante perché di fatto c'è questa grande trasformazione per cui negli anni 60 gli italiani si sono trasferiti dalla campagna alla città e automaticamente tutto ciò che riguardava l'agricoltura era visto negativamente. Il contadino, no, che non era così proprio una figura di prestigio rilevante, e anche chi per esempio il turismo non si andava in campagna perché sembrava un poveretto uno che andava in campagna in vacanza dai, magari appunto dai parenti, perché non aveva i soldi per andare al mare o in montagna. Poi cosa è successo? L'urbanizzazione un po' esasperata e estrema di alcuni contesti ha fatto sì che i figli e i nipoti di questa generazione che si era trasferita in città riscoprano certi valori, un po' per reazione alla vita della città molto artificiosa, artificiale, stressante, dove magari non colgono quelli che possono essere anche i lati positivi della città, peraltro, come direbbe Simmel, no? Hanno riscoperto l'agricoltura e quella campagna, attenzione, magari talvolta idealizzandola, perché hanno un'idea della campagna che non esiste più, anche la campagna si è globalizzata, si è trasformata e cambiata, però certamente oggi ad esempio andare in agriturismo in vacanza è un valore importante, gli sceneggiati televisivi, i serial trasmettano, sono ambientati anche in contesti come e gli agriturismi, quindi è diventato un qualcosa di importante andare in campagna nel fine settimana e magari anche ritornare a certi lavori, ripeto, col rischio di qualche idealizzazione. Quindi in realtà la cosa importante è che questi giovani poi veramente si attivino e lavorino in campagna per vedere quali sono le condizioni reali, che sono migliori del passato, ma sempre percepiscono complesse. Diversamente, ecco, diciamo, sì, rispetto alla generazione precedente. Sì, sì, no, è chiaro che oggi fare il contadino non è più come un tempo ha riacquisito, sì, è molto... Non era mica positivo quando si diceva, no, così. No, assolutamente. Oggi invece viene vista come qualcosa, come un lavoro significativo, come tutti quelli che riguardano l'agroalimentare. Diceva prima il rettore, dagli chef che sono delle star, fino però anche al lavoro del contadino. Può diventare persino un buon partito per una donna, un contadino, cosa che in passato invece era assolutamente negativo. Quindi a questo punto di vista direi che certamente questa figura è cambiata, siamo in una fase di passaggio. Credo che questo progetto Terre Originali sia quello più interessante perché concretamente vuole andare oltre, no, la moda, vuole davvero che ci sia questo passaggio, che però è un dialogo, non è solo una trasmissione di una terra ad un altro proprietario, è qualcosa che poi diventa un dialogo che può essere importante anche per i giovani, perché poi in realtà non è solo una questione malinconica, questa è gente che ha lavorato la terra e la conosce bene e che ha fatto di questo anche uno stile di vita che forse i giovani vogliono cogliere in qualche modo, no? Quindi non è solo guarda ti do la terra, no, è tutto un sistema di modi di pensare. Chiaro che i giovani li adatteranno alla loro realtà, magari producendo cose nuove e diverse, come si è visto, non solo viti, per fortuna, perché altrimenti le langhe diventano un immenso vigneto e non è il massimo per il paesaggio. Quindi da questo punto di vista è un esperimento importante. Questo è nato qui, scusi se la interrompo, anche proprio perché queste sono le langhe, hanno visto tanti proprietari venire a comprare ma non a vivere. Ci sono grandi nomi come la Toscana, del resto, vengono, compro, faccio la terra, poi ma non la vivo. E invece qua qualcuno ha percepito questa assenza, cioè sì, ma i paesi si sono spopolati. Certo, ma infatti questo è un problema che non riguarda solo le campagne ma anche la montagna italiana, cioè come ha detto bene qualcuno, è un problema poi di paesaggio, è un problema di difesa del territorio, del suolo, perché se il suolo non è più coltivato poi diventa franoso, non è più adeguato a quello che è il vivere delle persone. Chiaramente oggi con i nuovi strumenti tecnologici, social network, internet, tu puoi vivere in campagna e non essere per nulla isolato, in montagna pure, quindi questo cambia molto, no? Le nuove tecnologie hanno anche questo vantaggio di poter fare in modo che alcuni luoghi che anche sono diventati meno densi di popolazione, ma possono offrire molte cose grazie a questa possibilità di vivere estivamente. È chiaro che poi io sono convinto comunque che chi sceglie questa realtà venendo dalla città vuole fare una scelta di vita e quindi è consapevole di rinunciare magari ad alcune cose che la città può dare, evidentemente però non, il centro simbolico della loro esistenza non è più centrato sulla città ma diventa diverso, e quindi per esempio non so, una certa maggiore tranquillità, un senso diverso da dare al tempo, comunque anche una maggiore sicurezza, no? Perché in qualche modo tutto sommato è più sicuro oggi vivere in alcune realtà della campagna piuttosto che in città, per tanti motivi, il verde, l'aria, l'acqua, insomma tanti aspetti che in qualche modo rappresentano quelle nuove ricchezze che oggi non sono appunto il tempo, la sicurezza, la natura, il verde, e non è più soltanto una ricchezza di tipo economico, tant'è vero che poi spesso sono i ricchi, no, che in effetti decidono di fare questo passaggio. È alla stessa ricerca che si riferisce all'inizio di questo passaggio del suo intervento il rettore dell'Università di Pollenzo, Piercarlo Grimaldi, docente di antropologia culturale. Però l'intervento prende a un certo punto un'altra piega che ci piace proporvi per concludere questa puntata. Questa ricerca un po' un tornante della storia l'ha superato, questo nostro tornante di questa nostra piccola storia, che però è anche grande storia, perché se davvero noi riuscissimo un po' a rivoltare questa piramide che a me non piace, la piramide generazionale, quella sociale dei miei tempi era... L'aspirazione massima era diventare intellettuale organico perché eri posto alla sommità della piramide. Ho lavorato tutta la vita per diventare intellettuale organico, adesso scopro che come intellettuale organico sono al fondo della piramide, e alla cima della piramide che ci stanno gli chef. Io sono contento, però non è la terra in senso stretto. Io lo dicevo con il professor Corro, l'impegno che noi dovremmo avere come università in questo momento è studiare bene questa piramide, vedere dove ci stanno i contadini e vedere che questi contadini vadano al posto di qualcuno che parla di cibo, ma di cibo ne conosce poco, perché il vero cibo è quello che produce il contadino. L'altro, come dire, io su queste cose direi è più sovrastruttura. Ecco, io con questo vi ringrazio, ma credo che questo sia veramente un momento in cui davvero noi dobbiamo cominciare a riflettere non su quello che faremo, ma tanto su quello che abbiamo fatto, perché molto abbiamo fatto. Grazie. Grazie. E con le riflessioni del professor Grimaldi, rettore dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, ci fermiamo. Ci diamo appuntamento alla prossima settimana alla stessa ora. Grazie di nuovo a tutti dell'ascolto e tanti auguri per un buon 2016. Un saluto da Laura Bettini.